Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon sabato a tutti. Avete appena sentito un frame di Wish List dei Pearl Jam. Voi vi chiederete che cosa c'entra con l'industria? C'entra perché oggi parliamo di ambiente e di come la protezione dell'ambiente può generare un'industria, di come la sostenibilità può creare valore economico e anche valore industriale. E questo naturalmente è un desiderio auspicabile, dunque wish list, ma anche perché i Pearl Jam sono tra le band più impegnate, anzi sono forse l'unica band impegnata a favore della bioeconomia, cioè della economia che nasce dalla volontà di creare ambiente e clima sostenibile. Voi pensate quanto la tutela della sostenibilità e la tutela dell'ambiente può far lavorare le industrie per la produzione, ad esempio, dei macchinari per le energie rinnovabili, per la produzione di macchinari e sistemi anti-inquinamento e anche per la produzione delle bioplastiche. Ecco, le bioplastiche sono al centro di questa puntata per un motivo molto semplice. L'Italia ha il primato mondiale nella produzione di bioplastiche. Le bioplastiche sono quelle plastiche che sono create utilizzando componenti naturali e in particolar modo la bioplastica più nota, il Mater B, è creata utilizzando l'amido di mais e l'amido tratto dalle patate e permette di fare quei sacchetti biodegradabili e compostabili per fare la spesa che sono molto importanti per la tutela del nostro ambiente, perché gli shopper in plastica, come voi saprete, inquinano moltissimo, anche perché ci possono mettere molti anni, anche decenni, a decomporsi. Sono il principale fattore di inquinamento. Di tutte queste cose ne parliamo con l'ospite di oggi, che è Andrea Di Stefano, il responsabile dei progetti speciali della Novamont, che è la principale azienda produttrice di bioplastiche in Italia, una delle principali al mondo, e grazie alla Novamont si deve il primato manifatturiero mondiale che l'Italia ha nelle bioplastiche. Buongiorno Di Stefano. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, la bioeconomia e la tutela dell'ambiente possono alimentare un'industria? L'alimentano già, perché la bioeconomia già oggi è sono dati dell'Unione Europea, significa circa 2 miliardi di euro complessivi a livello globale, e all'interno della bioeconomia, essendo un settore molto ampio, si ricomprendono anche settori come quelli delle produzioni agroalimentari. In realtà poi l'attenzione che si sta puntando a livello europeo è sulle opportunità offerte dalla ricerca e dallo sviluppo di nuovi settori di applicazioni industriali che siano legati all'utilizzo di risorse rinnovabili, non in conflitto ovviamente con le produzioni agricole che fanno parte dello stesso settore. Certamente. Allora, voi producete questo polimero, il Mater B, tratto dall'amido di mais e dalla patata, che funziona esattamente come un polimero in plastica, però è compostabile, tant'è che i sacchetti si possono mettere nel reparto dell'umido e si decompongono tranquillamente o vengono assorbiti dal terreno. Un'altra applicazione, che sono i teli per la protezione delle orticole, poi diventano concime, giusto? Giustissimo, diciamo che abbiamo fatto già un passo in avanti rispetto all'origine della prima tecnologia, che è quella che esattamente indicava, dell'amido di mais. Oggi abbiamo gli amidi, ma abbiamo anche gli oli vegetali e più recentemente abbiamo messo un altro blocchettino, un altro pezzetto di monomero che poi serve per fare il polimero, e che otteniamo dalla fermentazione in un impianto biotech degli zuccheri. Quindi uno sviluppo industriale che sta diventando sempre più uno sviluppo anche high tech, perché si utilizzano appunto biotecnologie, in questo caso dei batteri geneticamente modificati, per fermentare gli zuccheri, produrre un componente fondamentale nell'industria della plastica, che è il butandiolo, da fonti rinnovabili. Questa filiera è una filiera italiana dal punto di vista industriale, che ha permesso di far ripartire impianti chimici che erano fermi. Tutti i nostri siti hanno la caratteristica di essere ex siti della chimica di base italiana, chiusi da parecchio tempo. Certamente, comunque Novamont fa 175 milioni di euro di ricavi, ha sede a Novara, nasce sulle ceneri della vecchia Montedison per volontà di un gruppo di ricercatori capitanati da Katia Bastioli, che è uno dei leader, ed è il principale, diciamo, attore nel settore della bioeconomia in Italia, con una strategia che è sempre stata quella di produrre la materia prima grezza, appunto il Mater B, ma di non realizzare mai direttamente i prodotti. Perciò ci sono aziende che fanno i sacchetti, una è stata ospite in questa trasmissione domenica scorsa, ci sono aziende che fanno i piatti, i bicchieri e le posate, che, pensate, si buttano via insieme al cibo avanzato e possono essere trattate come fossero cibo, e ci sono aziende per varie applicazioni. Dunque voi sostenete la creazione di nuove aziende e il fatto che ci sia una filiera di aziende di questo settore. Sì, la nostra convinzione è che se si fa un buon lavoro a monte sulla ricerca e sull'innovazione delle materie prime, e poi è possibile sostenere anche le filiere produttive dei trasformatori. Nel comparto delle materie plastiche esistono diverse tecnologie di trasformazione, per ognuna di queste tecnologie di trasformazione esistono delle aziende che magari negli ultimi anni hanno sofferto un po' per la concorrenza a basso prezzo, soprattutto proveniente dal sud-est asiatico, e che quindi con nuovi materiali... Vuole dire che ci sono aziende che erano dei plasticari tradizionali, dei produttori di cose in plastica, esatto, tradizionale, che hanno sofferto perché la plastica tradizionale inquinante costa molto di meno se viene dalla Cina, e invece entrando nelle bioplastiche, che hanno un maggiore valore aggiunto, quindi un maggiore valore competitivo e un costo maggiore, hanno potuto rivivere e hanno a loro volta fatto investimenti per essere al passo con l'innovazione che stava avanzando per effetto della ricerca. Ovviamente questo è un win-win molto interessante per settori produttivi che sono localizzati a livello territoriale nel nostro paese o nell'area, diciamo, dell'Unione Europea. Senta, ma i sacchetti per fare la spesa devono essere, a partire da il decreto di Prodi del 2012, obbligatoriamente materiale biodegradabile e compostabile. Però quanti sacchetti di plastica tradizionale inquinante girano ancora? Diciamo la metà del mercato. Addirittura? Sì, questi sono dati ufficiali che trovano conferma anche in una serie di recenti interventi della Guardia di Finanza e dei NOE per appunto reprimere i fenomeni di illegalità. Oggi siamo circa a metà del mercato, il che significa che sulla carta potremmo raddoppiare il volume d'affari delle bioplastiche, e questo potrebbe permettere di incrementare almeno di un ulteriore 20-25% i posti di lavoro connessi, perché ovviamente adesso siamo dimensionati su appunto metà mercato, passando a un completamento teorico di tutto il segmento dei sacchi per la spesa, asporto della spesa. Questo significherebbe aumentare ulteriormente ancora gli investimenti, l'occupazione e il fatturato legale. Comunque, sul Mater B e sulla storia della Novamont, sentite questa scheda e poi andiamo in intervallo e pubblicità, e ci sarà la seconda parte della trasmissione. Fondata e diretta da Katia Bastioli, manager e ricercatrice con una lunga storia Montedison alle spalle, Novamont è l'azienda leader nelle bioplastiche.

e di raccolta dei materiali plastici, quindi in quei casi specifici c'è un rischio molto maggiore di dispersione nell'ambiente. Quindi queste normative che avanzano quasi di mese in mese in diverse aree del pianeta, l'Asia, l'area africana, ma persino anche nell'area diciamo australiana, sono normative che possono lasciare un contributo molto rilevante dal punto di vista industriale, e questa leadership che oggi abbiamo in Italia, almeno per un po', potrebbe essere mantenuta con effetti occupazionali importanti. Comunque, tornando ai Pearl Jam, pensate che hanno sviluppato, insieme a una società che si chiama C-Let Plastics, delle etichette biodegradabili per i bagagli, etichette che regalano ai loro fan. Poi, tra l'altro, come molti gruppi, Pearl Jam, più invecchia il gruppo, più si abbassa l'età di quelli che lo ascoltano, e quindi è un modo di far capire anche ai ragazzini l'importanza del riciclo, dell'economia circolare e di quant'altro. Sull'ambiente c'è molta demagogia. La demagogia, la retorica che c'è su queste cose, talvolta le rende insopportabili. Io personalmente non le sopporto. E finisce con lo svilire anche delle cose serie. L'economia circolare è una cosa serissima e che ha un valore economico. Non a caso, uno dei punti chiave della politica industriale tedesca è stato quello di far nascere un'industria del hardware per le energie rinnovabili, i macchinari per le energie rinnovabili. E oggi la Germania, grazie a una politica industriale che ci vorrebbe anche da noi e che purtroppo non c'è, è tra i leader mondiali, anzi è il leader mondiale insieme alla Cina, nella produzione di macchinari a vario livello, dai pannelli solari e via via, per la generazione, l'immagazzinamento e la distribuzione di energie rinnovabili. In Italia non ci siamo riusciti, tanto che i produttori di attrezzature italiane, una volta che sono finiti gli incentivi, hanno chiuso numero importante, purtroppo. Lei che ne pensa di Stefano? Penso che siamo arrivati troppo tardi, che l'applicazione del conto energia, anche in misura eccessiva in termini di sussidi, non abbia incrociato la politica industriale necessaria che invece, per esempio, è stata fatta in Germania, e quindi quando siamo arrivati col conto energia, l'industria non era preparata, o meglio, quella che c'era era già morta e non avevamo più capacità di reazione, e quindi abbiamo avuto, questi sono dati ufficiali, un peggioramento della nostra bilancia dei pagamenti, perché abbiamo acquistato tecnologia e strumentazione da paesi o del sud-est asiatico come la Però Cina o la Germania. un'industria per le rinnovabili non è nata in Italia. Ma qualcosa si è mosso. Adesso credo che, per esempio, sull'immagazzinamento, sulla questione delle batterie, qualche presenza italiana effettiva ci sia. Però per fare veramente un'industria ci vuole una grande strategia, una grande politica Che industriale, qui non c'è che stata. qui non c'è stata. Comunque, il concetto importante è che l'economia circolare, ma anche l'industria della bioeconomia, può creare valore economico concreto, cioè non sono chiacchiere per stupide questioni di principio spregevoli come certi ambientalisti che li vedi, e francamente non vi dico l'istinto che suscitano perché siamo in radio. Sono cose concrete, sono soldi, sono posti di lavoro, sono stabilimenti industriali, cose che si toccano, cose che piacciono a noi. Beh, insomma, per fare un esempio, nel nostro caso, ovviamente parlo della casa che conosco, che è quella della Novamont, siamo passati da una decina di ricercatori in 25 anni a oltre 600 dipendenti con 500 milioni di investimento. Quindi Tre stabilimenti industriali tre a Terni, a stabilimenti Patrica e a Rovigo. Esattamente, tre stabilimenti industriali e, come dicevo, tra l'altro tre stabilimenti che possono fregiarsi sempre di essere al top della innovazione tecnologica, quindi con dietro delle Nelle industrie, piattaforme. delle fabbriche, altro che wish list dei Pearl Jam. Qui sono cose che noi abbiamo. Senta, ma le vostre fabbriche sono automatizzate? Sono molto automatizzate, sì, confessiamo che ovviamente avendo avuto l'opportunità e la possibilità di mettere in campo investimenti negli anni recenti, le fabbriche sono molto automatizzate e hanno dei cicli produttivi con un sistema da, diciamo, fabbrica 4.0, cioè con il massimo possibile dell'integrazione con gli strumenti e delle tecnologie più moderne, e quindi il numero dei posti di lavoro rispetto a quelli del passato ovviamente non è replicabile. Perché però queste tecnologie vi consentono di rimanere produttivi, di rimanere sul mercato, di continuare a crescere, di continuare ad assumere. Non solo, in alcuni comparti, penso a uno dei nostri partner che ha utilizzato un'automazione molto spinta e dei robot per produrre dei materiali trasformati in Mater B per il comparto alimentare, e l'ha fatto proprio per poter garantire un processo che fosse, dal punto di vista delle normative, molto aderente al principio della sterilità, insomma, del sistema, senza avere degli impatti economici che l'avrebbero messo immediatamente fuori mercato. Comunque siamo in chiusura e io volevo sollecitare le mail degli ascoltatori. La nostra mail, lo ricordo, è fabbrica@radio24.it, e io vi volevo chiedere due cose, una semplice e una un po' più difficile. Quella semplice è: ma voi vedete ancora dei sacchetti in plasticaccia tradizionale inquinante in giro? Ci volete dire dove li avete visti? Ci volete dire quali sono i supermercati che fanno questo? Se ci scrivete, noi leggeremo in trasmissione le mail che ci segnalano questo schifo. E questa è la più semplice. La cosa più complicata, sulla quale volevo sollecitare la vostra opinione a fabbrica@radio24.it, è invece un'altra. Che cosa pensate voi del rapporto fra ambiente e valore economico? Scrivete a fabbrica@radio24.it, continuate ad ascoltarci, non perdetevi neanche una puntata, e domani siamo on air alle 13.10. Saluto Andrea Di Stefano della Novamont. Saluto voi e tutti gli ascoltatori. E mi raccomando, domani 13.10. Buon sabato.